Buonasera da Maurizio Melisso. Ora lo dice anche la NASA. L'ICAT, la caldaia a fusione fredda messa a punto da Andrea Rossi, di cui qui ci siamo occupati, qui a Mr. Kilowatt a lungo, messa a punto, dicevo, da Andrea Rossi e Sergio Focardi, pare che funzioni davvero. Questa almeno è l'opinione della NASA, o meglio di Dennis Bushnell, che è uno dei più importanti scienziati della NASA e che in un'intervista rilasciata alcuni giorni fa alla rivista AV World ha dichiarato che le reazioni nucleari a bassa energia rappresentano il futuro, sorprendendo lo stesso intervistatore che non aveva fatto una domanda specifica in merito. Bushnell si è dimostrato tra l'altro molto fiducioso proprio che l'apparato di Rossi funzioni, pur non avendolo esaminato, almeno per quello che si sa. Non solo, Bushnell ha anche rivelato un'altra cosa, cioè che l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA appunto, è attualmente impegnata in esperimenti che potrebbero finalmente chiarire i principi fisici che permettono all'apparato di Rossi di funzionare. Questi esperimenti prenderebbero il via da una ricerca del 2005-2006 di due scienziati americani, Widom e Larsen. Widom è membro della Northeastern University e Larsen è il proprietario di una piccola società a Chicago, i quali avrebbero sviluppato una teoria che riuscirebbe a spiegare queste reazioni nucleari a bassa energia, ecco, dimentichiamo questo termine fusione fredda che è sbagliato, in termini diciamo di fisica conosciuta, tirando in ballo quelle che vengono chiamate interazioni deboli, una delle quattro forze della natura. Non entriamo certamente in questo momento in questi dettagli, sta di fatto che alla NASA sono convinti di riuscire a verificare o a falsificare abbastanza rapidamente questa teoria, che appunto potrebbe fornire una cornice teorica a tutta questa vicenda delle reazioni nucleari a bassa energia. Da un certo punto di vista non è che ci siano delle vere novità, perché appunto Bushnell non ha potuto esaminare o fare questo famoso test che tutti aspettiamo, che dovrebbe chiudere ogni discussione sul fatto che Rossi sia l'inventore del secolo oppure l'imbroglione, insomma, del secolo. Sta di fatto che questa vicenda ha tutta un sapore molto mediatico, per cui il fatto che un pezzo da 90 ci metta la faccia può risultare molto importante. E a proposito di questioni mediatiche, abbiamo qui in linea con noi Daniele Passerini, che è un blogger, gestisce un blog che vi consiglio di visitare, 22passi.blogspot.com, 22 scritto sotto forma di cifra, e che sta seguendo sin dagli inizi, penso per questioni di amicizie personali, casi della vita, come si suol dire, tutta questa vicenda. Passerini, sei in linea? Sì, Maurizio, ciao. Ciao, allora senti, cosa ne pensi di quest'ultima uscita della NASA e di tutto questo movimento che sta nascendo intorno a questo annuncio di Rossi? Penso che sono sempre più persone a parlare di questa cosa, è una cosa impressionante perché, te l'ho detto, io mi trovo sommerso da visite sul blog, non mi immaginavo nemmeno io, non potevo immaginare qualche mese fa che sarebbe venuto fuori tutto questo interesse. Beh, d'altra parte qui ci troviamo di fronte a qualcosa che, diciamo, se si dimostrerà vero sarà assolutamente rivoluzionario. Ecco, e la cosa interessante è che questa è veramente una strana vicenda in cui scienza e media si confondono molto, anche lo stesso Rossi è molto vago, ma comprensibilmente, insomma, forse cerca addirittura di confondere le acque. Addirittura sì, ci sono persone che cercano di confutare Rossi in modo anche piuttosto invece discutibile, vero Daniele? Ci sono tantissimi forum su internet, siti dove si prendono, c'è il gioco di prendere i video che girano sulla rete degli esperimenti di Rossi, prenderne un pezzettino e trovare tutti i motivi per cui potrebbe esserci dietro una truffa e anche inventarsi di sana e pianta delle ipotesi, insomma, senza poi pensare, senza tralasciando che stanno dicendo di tutto e di più contro l'Università di Bologna che si è inserito in questo discorso, insomma. Un altro aspetto che mi sembra importante invece è la corsa che si è scatenata tra ricercatori più o meno ufficiali, vero Daniele? Sì, anche sul mio blog arrivano tante persone che fanno capire che stanno provando a replicare. Va bene, grazie Daniele, ricordatevi 22passi.blogspot.com. Ciao Daniele. Grazie a te, Maurizio, ciao. Ecco, tra coloro che stanno cercando di replicare l'esperimento di Rossi c'è Brian Ahern, un ricercatore indipendente ma molto considerato dalla comunità di coloro che si dedicano a questi studi sulle reazioni nucleari a bassa energia, che alcune settimane fa ha affermato di essere riuscito a ottenere una produzione di energia autosostenuta, cioè senza bisogno di un input esterno, a partire da delle polveri che contengono al loro interno più o meno gli stessi ingredienti che utilizzerebbe Rossi. Ascoltate. Avevo a disposizione delle nanopolveri nel laboratorio nazionale dell'Iowa. C'è un solo posto in questo paese in cui si può disporre di queste polveri. Le abbiamo messe in un contenitore e le abbiamo trattate riscaldandole fino a una temperatura di 400 gradi. La potenza media delle polveri era più alta di quanto mi aspettassi, fino a 90-95 watt. Ma questo non ha nulla a che vedere con i risultati di Rossi. Stiamo lavorando sugli stessi materiali, ma i suoi risultati sono molto migliori. Da che cosa sono costituite queste polveri? Il materiale è costituito da zirconio, nickel e rame. Riscaldando lo zirconio con l'aria, questo diventa una specie di ceramica, creando delle piccole isole e circondando la parte di nickel, creando una struttura che può essere paragonata ad un panino farcito. C'è un elemento speciale che non conosciamo, perché loro non ce l'hanno spiegato. Io sto provando diversi elementi per vedere se riesco ad aumentare l'effetto. I risultati di Rossi erano molto migliori. Io spero di riuscire a trovare il materiale giusto. Bene, ci fermiamo qui. Vi terremo sempre aggiornati sulle novità che dovessero emergere intorno a questa strana storia dell'ICAT. L'appuntamento è a domani. Buona serata.